risorgeremo per l'eternità. Risorgeremo pure noi. Risorgeremo per l'eternità. Un giovane corpo senza limiti e difetti, la gioia e la pace troverà. Un giovane corpo senza limiti e difetti, la gioia e la pace troverà. Lasceremo mai.